al mio lavoro e ok, mamma mi dice sempre di fare il se e ok, voglio puntare in alto, toccare il cielo e ok, porto con me i miei fra, siamo partiti da zero. Siamo partiti da zero, partiti da zero, partiti da zero. Siamo partiti da zero, siamo partiti da zero, siamo partiti da zero. Siamo partiti da zero, partiti da zero, partiti da zero. Siamo partiti da zero, siamo partiti da zero. Lei mi dice che mi ama, ma nessuno ama chi sta per la strada. Chi pensa ai soldi prima che alla vita, perché senza soldi la vita ti sbrana. E siamo senza fede, senza cuore. Il blocco spara col silenziatore. Bra, ti lascia a terra, ma non lascia prove. Anche in mezzo a 30, ma con te si muore. Sogniamo sì euro, fatti da soli, partiti da zero. Con qualche amico che riposa in pace e qualche amico che riposa al fresco. Dammi una ragione per restare calmo. Non ci riesco manco con un G nel palmo. Sono in giro stanco, con il viso bianco, col mio socio a fianco che la gira in tanto. Sopra e sotto il palco la stessa persona. Se no piglio schiaffi quando torno in zona. Tutta la mia gente non sogna il diploma, sogna una pistola per spararti in gol. Siamo partiti da zero, partiti da zero, partiti da zero. Siamo partiti da zero, siamo partiti da zero, siamo partiti da zero. Siamo partiti da zero, partiti da zero, partiti da zero. Siamo partiti da zero, siamo partiti da zero. Prendo sti rapper stai piedi come le piante di ganja albanesi. Facci fumare poi levati, ci stai sul cazzo meglio se ci eviti. Stacco teste con il micro, chiedi di sfera fra sempre fornito. Non ti sopporto, non sono un tuo amico. I miei ragazzi ti fanno l'amito. Sotto i palazzi a fumare come ciminiere. Mai socializzato col carabiniere. Fra siamo cresciuti tra buone persone, senza imparare le buone maniere. Il flow più fresco di zona, traffico in persona, sta roba impressiona. Tu resta a casa, non puoi starmi dietro. Sposto lo sguardo e non sei più nel vetro, no. E ok, forse dovrei trovarmi un lavoro vero. E ok, mamma mi dice sempre di fare il serio. E ok, voglio puntare in alto, toccare il cielo. E ok, porto con me i miei fra, siamo partiti da zero. Siamo partiti da zero, partiti da zero, partiti da zero. Siamo partiti da zero, siamo partiti da zero, siamo partiti da zero.